Benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi ci concentriamo su come strumenti di intelligenza artificiale tipo ChatGPT stiano, cambiando un po' le carte in tavola nella ricerca scientifica. Ci basiamo su degli estratti, diciamo, da una guida per principianti pubblicata da Springer. E la domanda che, insomma, salta subito fuori da queste letture è: ma questi modelli linguistici possono davvero essere un aiuto valido, concreto, per i ricercatori? La tesi di fondo che emerge sembra essere che sì, offrono capacità notevoli, però, attenzione, ci sono anche dei limiti importanti. Praticamente un assistente capace, ma da supervisionare. Vediamo un po' cosa dicono le fonti a supporto. Abbiamo esaminato. Suggeriscono proprio questo. Hanno messo alla prova modelli come ChatGPT, le versioni 3.5 e 4, e anche quello che era Bing Chat, ora Copilot, e li hanno testati, diciamo, su diverse fasi del processo scientifico, dall'ideazione, la progettazione dello studio, fino alla pubblicazione, alla comunicazione dei risultati, insomma, un po' tutto il ciclo. Ok, interessante vedere proprio l'applicazione pratica. Allora, quali sono le capacità chiave? Quelle più, diciamo, sorprendenti o utili che emergono da questi test? Ma guarda, ce ne sono diverse. Una che colpisce subito è la capacità di sintesi ed estrazione. Praticamente questi strumenti riescono a tirar fuori i punti chiave, le informazioni specifiche, da articoli scientifici lunghi e complessi. A volte, e questo è notevole, generano sintesi che sono persino più chiare, più concise di quelle fatte dagli autori stessi. E lo fanno, in tempi rapidissimi. Addirittura più chiare degli autori. Questo è forte. Sì, parliamo di secondi, letteralmente, contro magari ore di lavoro. Però sorge la domanda sulla fiducia, no? Cioè, ci si può fidare ciecamente, magari per una revisione della letteratura? Bel punto. La velocità è sbalorditiva, ma la fiducia cieca è, diciamo, sconsigliata. E poi vedremo perché, parlando dei limiti. Oltre alla sintesi, c'è l'interpretazione di figure, grafici, anche complessi. Riescono a correlarli al testo, a volte con qualche piccola imprecisione, magari sui colori, sui valori specifici, però l'analisi c'è. Capisco. E poi anche la valutazione degli articoli. Possono identificare punti di forza, punti di debolezza di un lavoro. Questo offre una prospettiva utile agli autori, anche se va detto che gli editori sollevano preoccupazioni. Immagino, sulla confidenzialità, forse. Esatto, confidenzialità e anche i limiti intrinseci dell'IA. Però, insomma, la competenza dimostrata nei test è notevole. Ok, quindi analisi di testo, immagini, valutazione. E sulla scrittura, la scrittura vera e propria, lì come se la cavano? Lì c'è un punto di forza notevolissimo. La revisione linguistica avanzata. È quasi sbalorditivo. Correggono grammatica, stile, riscrivono passaggi per migliorare la chiarezza, superano le barriere linguistiche, sai, per chi non è madrelingua, e arrivano quasi al livello di un editor professionista. Spiegano anche le correzioni, il che è utile per imparare. Wow, questo sembra un aiuto enorme, specialmente, come dicevi, per chi magari scrive in una lingua che non è la sua. Assolutamente. E non solo, generano anche titoli per gli articoli. Sai quanto tempo a volte si perde per un buon titolo? Loro ne propongono di pertinenti e creativi, molto rapidamente. Vero. E per la parte, diciamo, più a monte, la progettazione dello studio, l'ideazione? Danno una mano anche lì. Possono fornire bozze dettagliate di protocolli sperimentali o di questionari per sondaggi. Includono persino suggerimenti su aspetti tipo QA/QC, assicurazione e controllo qualità. Utile per chi inizia, immagino. Molto utile per i principianti, sì. Però, ecco, qui serve sempre quello che le fonti chiamano un reality check, una verifica basata sull'esperienza reale. Certo. Aiutano anche nel brainstorming, sai, per esplorare argomenti o per strutturare bozze di proposte di ricerca. Anche se le fonti notano una cosa, pur essendo molto informati, manca forse quella scintilla, quell'elemento di vera innovazione umana. La creatività originale, diciamo. Esatto. Infine, sono capaci di adattare testi scientifici per pubblici diversi, che è importante per la comunicazione. E possono creare anche immagini illustrative, anche se lì ci sono dei limiti, specie con visualizzazioni molto complesse o con le restrizioni degli editori. Ok, mi sembra che il quadro delle potenzialità sia abbastanza chiaro. Assistenti potenti per, velocizzare, sintetizzare, rifinire, persino per dare spunti iniziali. Ma avevamo accennato ai limiti. Quali sono i campanelli d'allarme principali? Quelli che le fonti evidenziano di più? E qui, appunto, torniamo alla tesi iniziale. Sono assistenti, sì, ma non sostituti autonomi. Il limite più grosso e più discusso sono le cosiddette allucinazioni. Allucinazioni? Cioè? Cioè, il rischio concreto che l'IA fornisca informazioni false, dati inaccurati, o peggio ancora, citi fonti sbagliate o addirittura inesistenti, inventate di sana pianta. Aia, questo è un problema serio per l'integrità scientifica. Decisamente, è un rischio significativo che non si può ignorare. Questo da solo, come dicevi, giustifica la necessità di una supervisione umana molto attenta. Quindi, informazioni potenzialmente inventate. Grave. Cos'altro? C'è altro? Sì, c'è la casualità. A volte capita che, per la stessa identica richiesta, lo stesso prompt, l'IA dia risposte diverse in sessioni diverse. Questo crea un po' di incertezza. E poi le omissioni. Ad esempio, è emerso che spesso non riescono ad analizzare i materiali supplementari allegati agli articoli. Sai, dati extra, metodi dettagliati. Che spesso sono fondamentali per capire davvero il lavoro. Esattamente. Quindi tutto questo cosa ci dice? Rafforza l'idea che la verifica umana, quella rigorosa, e il rispetto delle linee guida, etiche, editoriali, non sono optional, sono essenziali. Quindi, per tirare un po' le somme, la tesi di fondo delle fonti che abbiamo visto sembra reggere bene. L'IA, come ChatGPT, può essere davvero un copilota di valore nella ricerca. Accelera certi compiti, offre spunti, aiuta tantissimo nella scrittura, nella rifinitura. Però, ecco, il pilota. Il pilota resta l'essere umano. La validazione critica, la responsabilità finale, è nostra. Proprio così. È una sintesi perfetta. E questo, sai, apre una riflessione interessante anche per il futuro, che è suggerita nelle conclusioni delle fonti stesse. Da un lato si auspica una collaborazione più stretta tra ricercatori e sviluppatori per migliorare questi modelli, per affinarli. Ma spingendosi un po' oltre, la domanda diventa: cosa servirebbe davvero per passare da questa, che è un'assistenza, per quanto avanzata, a una vera collaborazione scientifica alla pari con un'intelligenza artificiale futura? Un'IA magari capace di superare i limiti attuali, tipo le allucinazioni, o magari capace di mostrare una creatività che oggi consideriamo solo umana. Ecco, questo è un pensiero su cui secondo me vale la pena continuare a ragionare.